A me interessava sapere due cose. Una, un po' gli strumenti che usa per ricostruire il testo, cioè sia che si è parlato di storia orale, che è importante in questo caso per le pubblicazioni che voi fate, e quindi sapere un po' come il suo metodo che ha utilizzato per scrivere questo libro, cioè come ha fatto ad arrivare. E poi l'altra cosa, a proposito appunto dell'attualità di questo pensiero, no? Che è una delle cose, cioè, che più mi ha colpito un po', di come può essere comunque intesa non tanto come una lotta appunto solo di genere, quindi femminista, ma intesa anche come, cioè, lotta politica che non può prescindere dalla lotta di genere o viceversa. E appunto credo anch'io che proprio nell'attualità ci si trova spesso confrontati con questo tema, no? Il fatto proprio di riuscire, come tu prima dicevi, parlavi di empowerment, cioè questa parola che alla fine intende tirare fuori le capacità individuali sia della donna come dell'uomo, per poter poi affrontare le difficoltà di comunicazione di genere o le difficoltà di una lotta unitaria, seppur ci sono dei limiti, no? Comunque ancora oggi. Lui prima parlava che il rapporto tra donna e uomo ora è più corretto, tra virgolette, in confronto agli anni 20 o 30, però ci troviamo comunque confrontati con delle contraddizioni che all'interno del movimento non si riescono comunque a risolvere o a sradicare, eccetera. Quindi mi interessava anche sapere, visto che è una federazione così forte, innanzitutto un po' l'organizzazione di questa federazione, se era esclusivamente femminile e come erano organizzati, cioè assemblearmente, cioè come funzionava proprio a livello della nazione, vabbè, del territorio. E poi cos'è rimasto, cioè, al giorno d'oggi, nel senso, vabbè, un po' conosco la situazione del movimento spagnolo, so che sono rimaste delle cose, però se era così radicato a livello della popolazione, dove poi è andato a parare, diciamo, perché. Contando che ci sono stati poi 30 anni di franchismo, Esatto, sì. che ha sradicato Però se parecchio. magari nell'attualità 40, c'è 40 qualcuno anni, che si rifà forse già. a questo pensiero, no? Cioè questo pensiero che, bene o male, più che sembrare magari, diciamo, precostituito, cioè sembra invece essere originale e abbastanza, cioè, attuale, perché è dinamico e flessibile a livello di lotta di genere, no? E quindi mi sembra un'idea interessante da valorizzare. Inizio con la prima domanda che hai fatto. Marta Hackelsberg, come ho detto prima, ha fatto un giro molto vasto per tutta la Spagna e per l'Europa a recuperare le poche testimoni ancora in vita di quell'esperienza e li ha intervistate a lungo. A volte è stata proprio a dormire, a mangiare a casa delle intervistate per una settimana e più. Per cui ha raccolto un sacco di testimonianze, e non solo di donne, ma anche di uomini attivi allora sulla scena politica. Se voi sfogliate però il libro, non c'è pagina che non abbia sotto un riferimento bibliografico. Per cui ogni affermazione e ogni contestualizzazione comunque di quello che viene detto è fatta attraverso riferimenti o di libri o di articoli o di discorsi tenuti in conferenze, assemblee, eccetera, eccetera. Mi riferisco non solo a Mujeres Libres, ma in generale al movimento anarchico spagnolo. Pamphlet, cioè di tutto, quindi ha raccolto una quantità di informazioni di tutti i tipi. Su quel periodo, che sono testimoniate proprio dalle immense note a bordo pagina. Per cui dirti che questo libro nasce esclusivamente dalle interviste che lei ha fatto attraverso la Spagna non è vero. Sicuramente nasce forse molto di più da tutto uno studio approfondito che lei ha fatto di testi, di discorsi, di articoli, giornali, eccetera, eccetera, di quel periodo rispetto a svariati argomenti che non sono solo il discorso femminile, ma che inquadrano la lotta delle donne in quel periodo storico e in quel ambiente culturale politico. Martha Hackensberg difatti non è diciamo una non è una non è né una come si dice una giornalista né una mera storica, è proprio una studiosa, per cui diciamo ecco che forse quello che mi è mancato di questo libro è invece la restituzione pure semplice dell'intervista, dell'esperienza vissuta, perché è sempre filtrata in qualche modo dalla sua preparazione rispetto a certe cose. Rispetto all'attualità, mi viene un aneddoto che lei riporta. Attualmente in Spagna, all'interno dei movimenti anarchici, e mi sembra a Barcellona proprio, ci sia un gruppo che si chiama Mujeres Libres. È un gruppo di donne che si rifà all'esperienza proprio di Mujeres Libres. È un gruppo di donne molto giovani, tra l'altro. E questo non credo che sia un caso, proprio per il buio totale che il regime franchista ha creato durante 40 anni di dittatura, e il buio culturale, informativo, la paralizzazione di qualsiasi attività cerebrale che c'è stata in Spagna per 40 anni. Per cui non è un caso che gli attivisti anarchici oggi in Spagna siano molto giovani e che riprendano certe cose per quello che possono aver letto, sentito, ma difficilmente da esperienze, o almeno credo, questo è un'idea che mi sono fatta io, poi magari non è vero, da una continuità comunque di pensiero e di esperienza. Tant'è vero che queste giovani donne spagnole hanno cercato di avere rapporti con le vecchie anarchiche e il più delle volte è stato un rapporto conflittuale, per cui da parte delle giovani loro sono viste come le matusa che hanno idee retrive e obsolete su un casino di robe che insomma reazionarie eccetera eccetera, anche perché probabilmente lo saranno anche diventate in un certo modo a 80 anni. Dall'altra parte, da parte invece delle vecchie, vengono viste un po' come quelle che si credono in grado di fare tutto ma che in realtà non sanno organizzare un cazzo, che vogliono fare tutto e non sanno fare niente. E poi tra l'altro un aneddoto è quello che una di queste vecchie diceva: poi queste qui continuano a portare addosso la croce, e il crocifisso non può essere il segno di un'anarchica liberata eccetera. E la Martha Hackensberg non capiva che perché portarne la croce, non ce l'aveva la croce le anarchiche. Alla fine ha capito che il simbolo femminile, quello era visto dalle vecchie anarchiche come il crocifisso, e non capivano perché queste qui si dichiaravano anarchiche e portavano il crocifisso. Quindi proprio una quasi incomunicazione, cioè non si riescono molto a comprendere. Dopodiché io trovo che l'esperienza di Mujeres Libres, per quanto va vista nel contesto e nel contesto anche soprattutto della rivoluzione, comunque del fermento che c'era ideologico di quel periodo, sia uno degli stimoli più attuali che si possano avere, anche e soprattutto come donna, sulla possibilità comunque di affrontare certe cose da un punto di vista femminile, di confrontarsi con un universo maschile, benché adesso le cose siano cambiate notevolmente, anche grazie alle donne ovviamente, ma comunque con un atteggiamento di collaborazione e di messa in discussione continua e costante di atteggiamenti, di prevaricazioni e di retaggi di culture passate, che non deve mai venir meno, con la propositività di azioni e di collaborazione e di attivismo comune, a cui la donna dà un contributo notevole. Non so, io vivo l'esperienza di un centro sociale a Milano, dove la presenza femminile è insostituibile, cioè è, a parte che è la maggioranza, ma poi è fondamentale proprio per l'attività del centro, attività sia pratica che politica. E penso che molte cose, sebbene non riconosciute perché non conosciute, provengano anche da esperienze di questo tipo. Poi c'era una cosa più specifica che mi chiedevi tu, perché non mi ricordo più. Ah, ecco, come erano organizzate. Per la verità il libro non ne parla molto dell'organizzazione vera e propria del gruppo. Sicuramente era federato, perché, ripeto, non era una grossa presenza in una città, ma erano tante piccole presenze in tante città e anche in campagna, e anche all'interno della stessa città magari più di un gruppo che faceva attività per conto suo, magari federate, quindi avevano momenti di assembleari che si sono tenute almeno due o tre volte, una a Madrid, una a Valencia, un grosso convegno con una presenza enorme di donne, e a Barcellona, e per il resto non entra nel dettaglio dell'organizzazione dei gruppi. Dà forse per scontato che, essendo gruppi che si rifacevano comunque alle pratiche anarchiche e libertarie, fossero momenti assembleari di confronto e di decisionalità unanime, suppongo. Non vedo quale altro punto ci potrebbe essere. Un'altra cosa mi viene in mente è, all'interno dei vari corsi che Mujeres Libres organizzava, riferiti alle donne, ce n'erano alcuni che erano specifici sulla come dire, sul rendere la donna capace di parlare in pubblico, quindi dargli gli strumenti e la capacità di esprimere, anche se illetterata, anche se ignorante, senza la capacità di grosse dissertazioni filosofiche, ma la capacità proprio di prendere la parola in una riunione, cosa che la donna non faceva mai, magari era presente ma non parlava mai, di prendere la parola e di dire delle cose, quello che pensava. E quindi gli dava gli strumenti proprio per farlo. Erano corsi tra virgolette, erano più metodologie di emancipazione reale rispetto a dei momenti reali, concreti, in cui la donna aveva bisogno di esprimersi e non aveva, e si sentiva a disagio, si sentiva legata, in soggezione. Riuscire a tirarli fuori invece la... Non so come fossero svolti, però era molto interessante. me ha colpito molto anche l'eccezionalità della genesi di questo lavoro, l'idea di, dopo 60 anni, andare a ricercare delle persone che hanno vissuto un'esperienza così forte, forse non è solo, potrebbe anche essere non solo un ricostruire quello che è successo nel passato. Ecco, una cosa che mi viene da chiedere, in tutto quante donne ha trovato ancora? Purtroppo non tantissime, una decina. C'è scritto qua, no? Sì, c'è scritto qua. C'è scritto nei ringraziamenti, c'è tutti i nomi delle donne che lui, che lei ha incontrato. E poi un po' riprendendo anche quello che è stato un po' toccato nella risposta precedente, queste donne che comunque hanno vissuto questa esperienza iniziale del vivere la quotidianità, anche sotto, cioè, proprio gli alimenti quotidiani, viverle come rivoluzione, dico, hanno passato quasi 40 anni di franchismo, 20 anni sì, molte all'estero. Borghese. Ecco, si è lavorato anche su, ma dopo 60 anni cosa è rimasto? Come vivono queste donne, o come vivevano, come hanno vissuto questa loro quotidianità durata 60 anni? Cosa hanno vissuto questo confronto anche con una donna che viene a risollevare ancora elementi importanti che sono stati fondamentali nella loro vita? E così, non so se ha lavorato anche su queste cose o se emerge anche questo aspetto, che poi forse è un aspetto che magari tocca anche noi, no? Dico, 20 anni è facile essere rivoluzionari, poi a 60 anni siamo tutti ben integrati. Beh, c'è un libro che abbiamo in lavorazione, no? Che è un libro scritto da una di queste donne che è stata intervistata dall'Hackesberg, che è Anna Delso. Anna Delso era una giovane compagna che ha partecipato appunto alla Rivoluzione Spagnola, ha partecipato all'esperienza di Mores Libres, molto giovane, e poi ha vissuto l'esperienza dell'esilio e con tutto quello che ha conseguito. E ha scritto questo libro, questa autobiografia, che parte proprio dal momento della sconfitta in poi, no? Dal 39 in poi, e è questo libro che si intitola 300 uomini e Dio, no? 300 uomini e Dio, e narra proprio questo percorso, coprendo un po' questo spazio che, tanto, che Anna tu adesso era una miliziana, cioè sì, era sì, sul fronte a combattere. E adesso vive ancora, è ancora vivente in Canada, varie vicende della sua vita l'hanno portata poi in Canada, è stata in diversi paesi, nei campi di concentramento francesi e poi in altri paesi. E qui si può capire, si può seguire questo percorso, perché quello è un libro che abbiamo intenzione di pubblicare, che pubblicheremo, proprio perché colma un po' un vuoto, no? Nel senso che sembra che poi i fenomeni finiscono, ma poi sta gente dove è. Questo qui è un libro che consente un po' di capire questi percorsi, certo partendo sempre dall'esperienza di una persona, no? La persona è magari un'esperienza sua particolare, però anche tramite questa esperienza particolare si può avere dei maggiori elementi di comprensione di questa generazione, di cosa ha vissuto e di cosa ha mantenuto. Cioè, io ricordo una cosa, una cosina, però secondo me significativa. Franco è morto nel 75, no? C'è stato un periodo un po' di travaglio. Nel 76 Federica Monzeni, che è citata anche nel libro, che però non apparteneva a Mueres Libre, Federica Monzeni. Ah no, scusa, Federica Monzeni. Non apparteneva. No, scusa, però è stata un esponente, sì, sì, di punta del movimento libertario spagnolo. Torna a Barcellona e i compagni organizzano un comizio nel 76. Beh, c'erano decine di migliaia di persone a Montiuc, nella piazza sotto Montiuc, a sentire la Monzeni, no? Ed è stato poi quella grande manifestazione che ha raccolto quasi 100.000 persone, non ricordo il numero, ma fu una manifestazione enorme, esistono le fotografie, esiste tutta la documentazione di questo tipo, che mise in allarme il potere spagnolo, che era il potere post-franchista, che si stava transitando, no, tramite i socialisti alla cosiddetta democrazia. Subito dopo poi ci fu la bomba al Teatro La Scala, che fu una specie di ripetizioni di Piazza Fontana su scala spagnola, no? Furono bombe provocatorie addossate dagli anarchici che misero in difficoltà il movimento, no? Ma tanto per dire che poi, a distanza di 40 anni, Federico Monzeni ritorna a Barcellona e si trova 100.000 persone che la stanno a sentire, insomma. Quindi vuol dire che certi fili, certe esperienze, no, si sono mantenute, hanno mantenuto una loro presenza e sono riusciti a trasmettere, no, storie di cui noi ne sappiamo veramente poco. Ma la CNT ha continuato a operare in clandestinità per anni e anni e anni. Cioè, i compagni hanno condotto una lotta in clandestinità in condizioni terribili. 500.000 sono i morti assassinati dal franchismo, no? Dopo il 39, 500.000, non è cifre da poco, non sono andati giù pesantissimi, no? Bene, nonostante questa situazione, il movimento era talmente diffuso e il livello di consapevolezza era talmente alto che si è arrivati appunto a mantenere questi fili, queste cose. Io credo che sono un'esperienza interessante, e anche io, ancora oggi, il movimento spagnolo, pur nella sua diciamo nelle sue difficoltà, come ce l'abbiamo noi, come ce l'hanno tutti nel rapportarsi con assetti di potere che sono molto più ambigui di quelli di una volta, no? con tentativi di integrazione che si sviluppano sempre a vari tipi, beh, è sempre un movimento che riesce a produrre una tonnellata di libri, c'è il caso editrici, c'è una ricerca storica molto estesa. C'è un senso delle proprie origini che è molto diffuso, e questo perché? Perché c'è una curiosità, permane una curiosità rispetto a questo movimento, che è la curiosità di quelli che pensano che comunque il socialismo anarchico rappresenta una possibilità reale di uscita dalla crisi del mondo contemporaneo. D'altronde, se l'anarchia è prodotta, quella che chiamano anarchia è quella delle periferie, delle banlieue che bruciano, no? Delle New Orleans che viene sepolta dalle acque e che sparano addosso la gente piuttosto che soccorrerli. Se questo è il sistema di potere, a me pare evidente che il socialismo anarchico risulta veramente l'unica risposta razionale all'imbarbarimento che stiamo assistendo, no? Per concludere con un pistolotto. Io ho una domanda. C'è qualcosa all'interno della Spagna che studia sul movimento delle Mujeres Libres? Per esempio, stati storici, Tallies che studia la guerriglia post-franchista, post-rivoluzione. Ci sono le varie interpretazioni della CNT, ci sono gli studi specifici, locali o generali, nella Catalogna così. Ma non ricordo, non ho mai sentito parlare di uno studio di gente all'interno, di spagnoli che hanno fatto qualcosa, che hanno fatto ricerca. Sono due americane, per quanto ne so io, che hanno fatto lo studio su Mujeres Libres, la Mary Nash, di diversi anni fa e la Hackersberg adesso. Sono uscite una serie di memorie, testi di memoria di varie compagne, insomma, come per esempio quella che è uscita dalla Pepita Carpena, sempre dell'Anna Adesso. E questi qui sono i primi nomi che mi vengono leggendo l'elenco, e io sono una ventina, tra l'altro, i nomi che lei cita di compagni di Mujeres Libres sentito, una ventina. E sono testi, tra l'altro, editati anche in francese. Le Pubblicò ha editato una serie di opuscoletti sulla vita di queste compagne, sulle esperienze di questi compagni. Che poi esista uno studio specifico, io francamente non saprei dire. Cioè, io ricordavo solo quella della Pepita Carpena, però altri non ne avevo sentito parlare. Però c'è stato un convegno ultimamente molto importante a Madrid, organizzato da Anselmo Lorenzo, si è tenuto esattamente, mi pare l'anno scorso, nell'autunno dell'anno scorso, un convegno di studi molto articolato, era circolato il programma, non so se era circolato anche qua, in cui c'era una serie di relazioni, di studi, questo qui fa intravedere che evidentemente un lavoro di ricerca c'è anche da parte non solo di militanti, ma anche da parte di esperti, di studiosi, di ricercatori e così via. Sì, questo qui. Anche tenere conto che il libro poi è stato pubblicato in americano 15 anni fa. Nel 91. Eh? Nel 91 l'edizione americana. No, voglio dire, c'è, forse è successo anche da dopo, in Spagna, come ricerca. Sì, sì. Se interessa, i nomi dei relatori di questo convegno sono disponibili, se interessa avere dei contatti diretti per saperne di più, posso far avere questo materiale. Non... Sì, no, penso che vale la pena. Sì, penso. No, per magari dire una cosa positiva, adesso ripensandoci, alcuni compagni erano dagli Spagna 6 mesi fa che c'era un incontro zapatista e dicevano che si erano abbastanza, erano rimasti veramente colpiti dal fatto di come le donne in realtà partecipassero molto di più che da noi, per esempio. E infatti poi ripensandoci penso che anche questo retaggio, cioè sicuramente c'è stato e c'è ancora, perché effettivamente la determinazione della donna nel movimento spagnolo penso che sia molto diversa da quello italiano o quello di altri paesi. Cioè, quindi io penso che effettivamente ci possa essere un nesso anche. Sicuramente c'è. Sicuramente c'è. Certe cose comunque, per quanto vengano represse e annientate, comunque restano nella memoria collettiva e comunque sono un sogno, sono una cosa a cui tendere per chi.